Hadith numero 16 da Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui. È stato tramandato che un uomo disse al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, consigliami. Disse, non t'arrabbiare. L'uomo ripeté molte volte la stessa richiesta dicendo consigliami, e ogni volta disse non t'arrabbiare. L'ha riferito l'imam al-Bukhari.